non ce n'è per nessuno. È così. Provare per credere. Ma com'è che a me non mi ascolta Eugenio? Cos'è? No, non arrivo. Eugenio, dove sei? Con chi sei? Io non arrivo a nessuna parte. Riprendi Luca, un secondo. Ehi, Eugenio, dove sei? Roberto, dire che sento un borbottio. Sono qua, dai, non riesco a capirlo. Mi senti a me, Eugenio? Sì. Eugenio, a me mi ascolti? Sì, ti ascolto, non te. Sono di tutti, capito? Sono di tutti, gli altri. Ho sentito un borbottio, non so se stanno dicendo a me. Non te l'ho ascoltato che era con Gigi attaccato. Tu stai arrivando a Santiago 9, alle punti dove sei oggi? Sì, Fabri, a te ti ascolto bene. Roberto! Dimmi oggi! Dicendo che sono dopo i punti, capito? Ma io ti ascolto perfettamente, Santiago 9 Radio 5. Solo che non riesci ad ascoltare a Luca e a Claudio. Riesco a sentire a te e a Fabrizio. Poi gli altri no, fagli andare avanti, non so. Mi ascolti Eugenio, 1, 2, 3, prova. Ma va si va a entrare in plastica. Si è assentato Fabri Claudio. La strada di Usilo, la nuova, di lì più o meno, dove c'è la torre dell'acqua, più o meno lì di fronte. Sì, ma infatti fa dei collegamenti allucinanti Claudio, anche in altre bande ha provato. Solo che non riesco a sentire a farmi a coso, a Claudio e a Luca, a Eugenio. Dice che ascolta solo a me e a te Fabri. Quindi non è più torre di controverso, è il numero 2 passata. Boh, mi dispiace, Cla, hai messo il titolo. Claudio! E non c'è andato oggi il volcano. Sono rientrato a casa, ero a Cagliari. Sono a Cagliari, sono rientrato a casa. Claudio! A Cagliari, hai preso un po' di acqua, quindi io sto rientrando a Tiesi e stava piovendo di lì. Attento, Spaziero! Claudio ti sta chiamando. Claudio è andato a attaccare il Gigetto pure lui. Comunque il possesso di palla ce l'ha l'Inter, eh. Napoli 42 e l'Inter 58. Sì, si stanno alternando più o meno le occasioni. La sto seguendo col cellulare, col telefonino, la partita. Diciamo abbastanza equilibrata come cosa. Ok, e oggi rinnovate il mic. La Juve passa, bastano due partite e sale su. Io spero che oggi perda il Napoli, cazzo, così rimane attaccata al Milan, sennò se no andava in Napoli. Vediamo, c'era Gianfranco, si è risolto. Gianfranco, ci sei? Sono in camera operatoria. Sono operatoria. Fabri, apri il mic. Mi accolato. Ma cosa usa di valvole, Fabri, quelle russe? Non so che sono cose che costano. Dimmi una cosa, è corrente elettrica, come cacchio fai? Tu c'hai più di 3 kW a casa. Se no cacchio salta tutto, se ti tira fuori 1000 e passa, più tutto il resto che c'è attaccato, non bastano 3 kg. Ma già collaborato in altre bande? Non ho capito, lo uso? Se ne grossa non c'è bisogno, ossia che brucio l'antenna altro pezzo che pensavo. No, io qua lo uso, non l'ho mai usato, è la prima volta che lo uso qua. Quello che si sente è la ventola, non è alternata roba. Allora, come lui ci dice il PTT, parte capito? Bravo, adesso Claudio giusto, è le ventole dell'amplificatore, della valvola, dove c'è il camino della valvola che sta buttando aria calda, se no la bruci. Entra e esce, c'è un ventolone, sono fatte, c'è una ventola che sono quelle vettoriali, come le chiamano, quelle a chiocciola tipo turbina. Tangenziali sta dicendo? Tangenziali, bravo. Sì, l'ho visto Fabri, quando schiaccia la portante parte, ce n'è una in ricezione, no? Una che rimane sempre accesa e l'altra quando schiacci il PTT parte, ed è quello il rumore, ma sembra una motonave allucinante, enorme. Ma stava dicendo Luca, la Juve? Lo stesso palla, no, la Juve non lo so, che raggiunge, sta guadagnando punti, cioè per dire pareggiano o vince l'Inter, guadagna punti sulle prime, ma riesce a avvicinarsi. Il quarto posto dovrebbe fare la Juve, se no a pesce, non è vado il Champions l'anno che viene, non è che sta puntando al campionato, o campionato detto Milan, Inter e Napoli sono più forti. Adesso vediamo, domenica c'è Juventus Atalanta, se batte anche l'Atalanta allora diciamo che si rimette in gioco, ma se dovesse perdere con l'Atalanta deve solo puntare al quarto posto. Se invece vince con l'Atalanta vuol dire che allora vuole puntare più in alto, se ce la fa, se no pazienza. Ma Eugenio non mi ha sentito poco fa quando l'ho chiamato? No, dice senti, va solo a me e a Fabrizio, gli altri non li sentivo. Ma arrivava Santiago 7 qua, non so, vabbè, pazienza. Riprendi Fabri, fai girare. Riprendo io e poi il capo che mi aveva da ricordare che stanno devo lavorare. No, vabbè, io non ho capito, stavo chiedendo dove abitavi, ho capito più o meno dove c'è il senso. Ecco, la zona più bella che ci sia, quella me l'ho sempre guardata, ci ho sempre pensato, ho detto cazzo che bello qua, quella è la zona migliore. Infatti quando ho detto caspita, la zona qui sarebbe bello per abitarci, proprio per la radio, quella è la zona migliore che ci possa essere, non ce n'è. Ma dove Fabri? Dove abiti tu? Perché io non lo sapevo che eri andato lì, sapevo che ti eri trasferito, ma non dove. Grazie calda sono, 2 chilometri dove abitavo prima sono, non so se hai, c'è il centro ecologico, là c'è il centro ecologico, poi c'è la fermata dei tram, ok, e io sono praticamente di fronte a Sergio Renna, capito? Sono a circa, come ha misurato Roberto, 3,80 era di altezza Roberto. Sì, più o meno lì, l'Inter 2-1. Buono, sarà brutta catapultare l'Inter. No, una zona molto alta, ma poi avremo modo, perché non lo vedo nessuno, Fabri, la verità, non lo sa nessuno, lo sa Roberto, perché ancora non ci abitavo, siamo venuti a vedere i lavori e a dare un'occhiata un giorno, quindi lo sa Roberto e qualche un altro, ma niente di che, però poi con calma già vi faccio vedere come mi sono organizzato, c'è un giardino che si mette un traliccio da qua. Mio padrino si spaventa. No, sono d'accordo, ho capito la zona che mi piaceva a me. Da un periodo stavo pensando anche io di riacquistare da quelle parti, per poi mia moglie non fa pure i sassi, però era la zona migliore che ci fa, detto cazzo che bella zona questa, poi alta, bella, domini tutto, bella quella zona, secondo me è una delle zone migliori che ci sia per fare radio, lascia per le 27 dove c'è va bene, no? Però per fare radio HF, anche in VHF secondo me da lì spari molto di più. In VHF c'è un X50, ma senza palo, appoggiato al tubo delle antenne CB, un X50, e poi ho detto mi arriva l'R0, la sacere non recitavo, arriva tutto, anche da tutte le altre parti, no, è buona, la mia sfortuna, come sa Roberto, è che io sono appena nella vallata, appena vallata, mi mancano quei 50 metri proprio, per esempio, da dove abita il fratello di Roberto, a me c'è un dislivello di una cinquantina di metri, se fossi stato lì dove c'è Danilo, guai, perché già da qua sento tutto, ho parlato anche l'altro giorno con Cosio, con quello di Oristano, arriva benissimo, poi Ottieri mi arriva, non sentivo Domenico in diretta, sento Olbia in diretta, l'altra volta ho provato, stava parlando Paolo, ho messo in diretta e arrivava in diretta, chi l'ha mai sentito la Sassari Olbia in diretta? Bella zona, ok, ancora abbiamo tanto da fare, però piano piano, purtroppo piano piano, ma diciamo che linea di massima abbiamo già terminato. Vabbè, e a proposito, una parte l'ho finita della canalizzazione dell'acqua piovana, è venuto anche un bel lavoro, sto aspettando se piove, per vedere se perde, perché chiaramente i tubi sono a tangiti, quindi speriamo che abbia messo bene il tangiti, ma non penso, perché sono abbastanza attaccati bene. E l'altro lo farò appena fa una bella giornata come quella dell'altro giorno. Sì, a questo serve aiuto, attrezzatura, già ce l'abbiamo. Mix, ti telefono a casa, però sta facendo una cifra molto molto importante, un carissimo amico, dove c'è il campetto di calcetto, l'hai visto che c'è la fermata del coso, non faccio nome e cognome, però se conoscete lì c'è una mega villa, questo qua, ma con un terreno bellissimo, enorme, la villa sta dando, perché la moglie si è stufata, 750.000 euro, chi ci assudi è un buon prezzo. Sì, vabbè, poco mi sembra, se piccolina, se era un po' di più ci avrei pensato, così mi sa tanto già l'altretto, deve essere qualcosa di piccolo, a me non mi interessa così piccola roba. grande, dai, ma poi c'è lo piano casa, puoi fare il 20% in più. Vabbè, allora ci penso, dai. Hai capito, se te ci sono 50.000 euro. Allora, dai, che me ne vado un po' a guardarmi la TV, che io stanotte devo andare a lavoro e quindi mi sdraio e mi riposo un po'. Dai, ci sentiamo, ciao a tutti e alle prossimine. Bye bye. Ciao Fabri, dai, ci aggiorniamo. Come sempre, buon riposo, buon tutto, che ti devo dire. E i turni sono turni, porca paletta, vabbè, ma a te ti piacciono perché poi c'è sempre quei giorni liberi, perciò meglio di fare il giornaliero, ne cosa molto, ma che fa carità. Vai Roberto a salutare a Fabrizio. Ciao Fabrizio, buon lavoro, buon riposo prima e buon lavoro per stanotte, fino a domani mattina. Non ti stancare troppo, devi essere bello fresco. Dai, fate gli scherzi, buon tutto, ciao ciao. Vediamo se Eugenio c'è ancora, avanti Eugenio. Ascolta, sì, l'ho vista, c'è anche il cartello a vendere, sì. Ma è per capricci geometra lui, quello che sta vendendo. Allora, quello che ne pensa le pompe sommerse, tu. Quindi ho ragione io. Il mio carissimo amico. Eh beh, ci conosciamo molto molto bene. Non pensavo che era la sua, l'ho intuito perché so che abitava in quella zona. Via Napoli stai dicendo tu? Via Napoli, allora io con la casa ci sono entrato. Ma sai quanto è grande quella, a parte la bellezza dentro, tutto come arredamenti su misura, è enorme, cioè c'è anche i piani sotto, allora, veramente bella, una casa bellissima, perché uno dice cacchio, 750.000 euro. Ne stanno vendendo 800.000 euro quelle salendo nel Monte Bianchino, c'è gente che le ha pagate. Quella è a schiera, le ha visto 800.000 euro. Ma qua stiamo parlando di un terreno enorme con un sacco di alberi, non so quanti alberi c'ha, e sembra che solo di alberi di mirto ne ha 80, per farti un esempio. Più c'ha frutteto, olivetto e tutto, c'è un terreno enorme, un boschetto, e più c'ha una casa enorme, sarà non meno di 400 metri quadri la casa. Vabbè, questo è un bifamiliare, già lo sai, è oltre i 400 metri quadri. Sì, lo so. Ehi, sono entrato, è venuto il figlio qua, non me l'ha fatto lui quello che ho detto a Gianfranco, me l'ha regalato il figlio, capito, non faccio nomi, se no la gente capisce, me l'ha regalato lui, siamo molto molto amici. Molto molto amici, ci ho lavorato una vita io con loro, nel senso che tutto quello che serviva, ero l'unico che aveva carta bianca per andare lì, prendere materiale, comprare, cambiare, fare, capito? Quindi il pozzo, l'impianto del pozzo, delle pompe sommerse, tutto autoclave, tutto l'ho fatto fare a loro. E più a me poi mi ha regalato il figlio da poco, tolto quella flight a galleggiante, che me l'ha posizionata nei pozzetti del drenaggio della dove passano, insomma, i tubi, dai, dove passano i cavi, nei cavi d'otto, capito? Non ho messo lui, perché c'era sempre il problema che si riempivano i pozzetti con l'acqua piovana, ma è aspetta, adesso facciamo una cosa fatta bene. È andato, ha preso una flight, l'ha messa nel canalone, proprio dove arrivano le acque piovane, e praticamente quando si riempie il pozzetto di recupero si gira il galleggiante, c'è una pompa, sarà lunga 4-5 metri, che va fuori in campagna, capito? Neanche nel giardino, fuori nella campagna. Sì, no, ci conosciamo benissimo col padre, poi erano amici di babbo da ragazzi, una persona veramente in gamba, onesta, e lì quando è venuto mercoledì la macchina l'ho accompagnato a casa sua, ha accompagnato il ripreso, perché lei deve tagliare un albero, collegare, gli ha dato delle cime, quelle che usano loro per scendere le pompe sommerse, e poi, come si chiama, un mese fa è venuto, me l'ha data lui l'autoclave, quasi a regalo, nuova, identica a quella che avevo prima io, identica, proprio la stessa, non ho fatto nessuna modifica, sono fatto una doccia perché c'era un rubinetto, ma non era chiuso, non me ne sono accorto, si è tutto allagato, meno male, c'era una bella giornata, infatti ho detto mi scusi, mi sono fatto, non ti preoccupare, già sono abituato, siamo molto molto amici, lo sai quanti anni c'ha quell'uomo? Esatto. Tu quanti ne più di 80 ne ha, molti più di 80. Sembra un ragazzino, cioè se tu lo vedi saltando, infatti ha giocato a pallone e sta ancora giocando in porta, lui giocava un'agilità, io mi vorrei, a parte la testa, l'agilità e la freschezza fisica di questo è una cosa impressionante, io me lo guardo e dico, cazzo, questo ha 81 anni e sembra un ragazzino, cioè se tu gli dai 70 anni è troppo. Lo so, ma ne ha più di 80, signor Cesare, molti più di 80. Lo dico perché, ti ripeto, ci ho collaborato tantissimo con loro, tantissimo, tantissimo. E ci vediamo spesso, ci siamo visti da poco in via Carlo Felice, abbiamo fatto una chiacchierata, non sapeva neanche io, non stavo più lavorando. Infatti, se lo sapevo, ti avrei impegnato, no, non mi impegni perché se mi arrivi io basta. Non voglio più, no, mi serviva una persona come te a fare determinate cose. Capite, poi te lo spiego già volete, però no, basta così, roba, ho già fatto. Avete fatto un bravo tribù con la schiena, devo stare anche molto attento perché l'ultima vista che ho fatto sto peggiorando, io ho il F5 che non c'è più cartilagine, capito? Quindi mi raschia tantissimo, c'ho il cerotto dietro la schiena, purtroppo devo portare il cerotto. Quindi devo stare molto attento prima che mi poggio, non me ne piace più. Sì, aveva stare attenti. Vediamo chi è rimasto qua. Prima di tutto Gianfranco, se l'operazione sta andando a buon fine o il paziente è morto. Ma di sicuro c'è un serio problema sulla scheda audio che adesso sto verificando, perché non esce sui canali. Vediamo anche a livello, se a livello di scheda o se a livello di qualche drive, anche se lui dice che le piace. Sì, avanti. Eppure questa scheda audio, io mi ricordo perfettamente che il giorno che io ho spento il computer e ho staccato, le prime cose che ho staccato prima del trasloco sono i computer e li avevo già portati qua e messi in una stanza qua dove io sono adesso, questa stanza era tutta piena di cassette, cassettine, computer, roba elettronica per non rompersi, e l'ho staccata che stava funzionando la scheda audio, non capisco cosa le abbia preso. Io la scheda audio, come già hai detto, quella che mi hai detto tu, quella esterna, funzionava tutto quanto con quella esterna, con quella in dotazione dell'apparato non sentivo né, ma era una bestia, non c'è problema. Io sento qua sempre questo 9.15 che è da portante, che è avanti che vuole entrare. E anch'io l'ho vista, sì, su 9.10, però non so chi sia. Luca, tu sì. Ma lo sento un sacco di volte al giorno, anche quando stavo parlando lui, sempre tu, ma questa portante non si capisce chi sia. Luca, ci sei? Eugenio deve essere arrivato a destinazione. Vediamo qua se è rimasto qualcuno sul canale 10, attenzione 10. Nisba, risolvimi con la roba là se ci dici, se no andiamo con i pompieri, con l'autoscala la prendiamo noi. Rilasciati che ancora mi devi far vedere il nominativo, quando c'è il nominativo, che prima porta sfiga. Quando c'è il nominativo la piattiamo tutto. Chi è il vero bimbumba? No, il primo nominativo che era è ISL0, ullala. Ah, ullala, scusa. Spero che non sia tutto strano con questi whisky, cazzo, X, spero che non ci sia la X in mezzo. Ma cosa le fa? Cosa? Perché non sai dire cirofano. Allora, no, il mio è bellissimo, il mio, anche il primo era quello che mi avevano dato, poi mi avevano dato due assieme, uno a me e uno a Ivan, uno di Cagliari, DCR era. Capito, DCR, Delta Charlie Romeo. Poi dopo un mese ci siamo accorti che c'erano due nominativi uguali, allora me l'hanno cambiato, mi hanno dato DFB, però è abbastanza fiorevole, DFB. Devi fare bravo. Buonasera, ciao, devi fare Ramonello. Appena rientrato da Samugheo, paghi tu e mandico teo, poi mia magnata. Mio suocero di Samugheo, bellissimo paese, mio suocero di Samugheo. Sì, bello, gente molto accogliente, siamo andati in un ristorante che ci hanno fatto girare anche le budella. Bravi sono, bravi, bravissima gente, il mio suocero aveva un carattere che non ce n'era per nessuno, solo era sposato con una itirese, quindi prendeva colpi, vai Roberto. Sì, ciao Tino, Samugheo è il paese dei tappeti, c'è il museo del tappeto, ma è così. Sì, infatti mio cognato c'ha una... le pavoncelle, la pavoncella è quella di mio cognato, prende tutto, lasciamo vero. Cosa c'era? Che sagra c'era a te? No, siamo andati a giocare una partita contro quelli di Samuleo. Niente, finita la partita, era ora di pranzo e abbiamo finito un'ora e mezza fa, due ore fa. Di russo, allora dai, poi di lì sono molto ospitali, bella gente, bravi, eccetera, tutta quella zona lì, sono in gamba. Io se ci riesco, me lo sto sopravvivendo, voglio andare a questa cacca ad Arizzo, la sagra del Torrone o a Tonara. Ah sì, me l'ho raccontato, molto bello anche. No, ma è brutto, sai cos'è? Che dopo mangiato, che hai bevuto un po', che hai mangiato abbastanza perché le porzioni erano a dir poco abbondanti, il problema poi è il rientro, capito? Si vede la sonnolenza, ma levare, però, sai, bisogna fare un attimino così, un po' attenti, poi stava anche piovendo al ritorno. Vabbè. No, io mi fermo sempre, l'altra volta che sono andato a Uber, ero stanco, mi sono fermato nella piazzuola, perché ero dalla mattina a camminare, ho fatto un sacco di... Mi fermo nella piazzuola, mi sono sdraiato, con io che c'era mia figlia, con l'amico. Quando mi sveglio, mi arriva la polizia, qualche problema, mi sono svegliato di soprassalto, no, mi sto riposando. A me mi bastano 10 minuti di orologio, proprio 10 minuti, chiudo gli occhi, mi rilasso completamente e posso fare altre 3 ore di macchina. Però se ho quella sonnolenza, devo per forza fermare. Sì. Vabbè, io quando guido non mi viene, non mi è mai venuta, spero che mai mi venga perché mi piace anche guidare, quindi lì al ristorante ti dirò la verità che c'era, sai, un po' il tepore del caldo, la roba che ho mangiato, ma levare, ero lì per lì, no, sono andato in bagno, mi sono dato una sciacquata e poi ho ripreso continuare la festa, però sai, non è bello viaggiare quando perlomeno io sono abituato la domenica che mangio qua a casa, finito di mangiare, che ti abbuffi più del dovuto, più degli altri giorni, dai, tra virgolette, il divano è duplico. Sì, dai, mi compattate anche io. Ok, lasciamo un attimo il bianco, vediamo se qualcuno nel frattempo vuole entrare, se no riprende Claudio. Avanti che vuole entrare. Sì, vabbè, se vogliono entrare già bussano, non entrano direttamente, non fare lì a dirgli chi vuole entrare, perché tanto non c'entra nessuno. Se vogliono entrare già entrano lo stesso. Bravo, dai, riprendi. KK, va bene. No, ripeto, Samuleo è un bellissimo paese, sono stato e mio cognato collabora molto, proprio con i tappeti sardi, con tutta la pavoncella, che lo conosce. Negozio un bellissimo che c'è a Sassari. E va bene, sì, e poi si mangia l'addio, e va bene, dai, bisogna... Ma si è andato col camper, no? No, perché effettivamente volevo andare, solo che l'ho lasciato a controllo perché avevo una... non so, ovviamente le batterie del motore, quindi sicuramente c'è qualche cosa che sta assorbendo senza a mia saputa, e quindi l'ho lasciato a controllo. E niente, no, se no sei andato dalla sera prima. Ah, è vero. No, vabbè, poi il tempo brutto è meglio andare con la macchina che hai, che più fa molto meglio, semmai, insomma, siamo anche temporali così veloci, e quindi si è a posto, dai, va bene. Avanti, Roberto, poi non so chi ci sia rimasto altro. Ah, c'è sempre Gianfranco, vediamo Gianfranco. Sono ancora in camera frattoria, c'è il paziente, sta per... E via, buon divertimento allora, vai Tino di nuovo. Saluti Gianfranco, ho fatto come cento perché sono entrato così bruscamente, non so neanche chi c'era comunque. Che c'è, si faccia avanti. Una bella giornata. Ehi, non era male stamattina, beh, pensavo peggio, sta peggiorando, però stanotte sicuramente peggiora, pioverà sicuramente perché domani ha dato acqua. Va bene, l'avevi sentito tu l'MC50 modificato da Fabrizio? Va bene? Sì, l'ho sentito da ieri, non mi ricordo. sì, l'avevo sentito. Io una cosa, a proposito, vi ho chiesto poi per la stufa. Sì, purtroppo non ne ho più. E ti dico che sono in crisi anch'io perché ne serviva anche una a me, e invece no, non ha più. Ci ha venduto tutto, adesso ha fatto l'ordine e dovrebbero arrivare, mi ha detto, dopo Natale sicuramente, però mi ha detto se entra qualcosa di usato, anzi ce n'è una, mi ha detto che deve ritirare a Uri, 700 euro compreso di trasporto. La compro nuova. Cosa? Il prezzo lì la compro nuova. Allora, mi sa che ci sono gli incentivi, il 50%, e adesso una la milleduecento paghi 600, capito? Quindi, secondo me, già ci sto pensando a fare quella roba lì. Ci sono gli incentivi? No, non lo sapevo, perché ne serve anche una a me, capito? Ne serve anche una a me. Non lo sapevo che c'erano incentivi, io ho parlato con mia nipote oggi, non me ne ha parlato di incentivi, non mi ha parlato di niente, mia nipote le vende, no? A Incomfort, a Reline, di Arena, quindi di Porto Torres, hanno pannelli solari, fanno dei ridotti, condizionatori, non mi ha detto niente. Sì, informati perché l'ha presa un amico mio, non voglio fare il nome, già lo conosci. Ha fatto questa cosa qua, ne ha comprato una da 1200 euro, praticamente l'ha pagata 600 euro. Grazie. Ma adesso dico subito l'aria, riprendi Robert. E informati, poi fammi sapere. Molte volte ci sono questi incentivi come fanno per le macchine, per il discorso di risparmio energetico e cose del genere, ti danno per se ti cambi la candaglia, come i televisori. E la sorella ha preso il televisore per casa sua, mi ha detto dammi un televisore qualsiasi, gli hanno fatto mi pare 100 euro di sconto, una cosa del genere. Gli hanno dato un monitor, non era neanche un televisore, un Ferrui ci è andato e gli hanno dato 100 euro di sconto. Sì, vabbè, diciamo che lui ha fatto un punto, diciamo, questa storia del 110%, quindi ha fatto cena a casa, che finestra, ma lei c'era, si è informato, c'era anche questo fatto della stufa pellet, quindi ne ha approfittato. Sì, dai, è una buona cosa, diciamo, ne stanno vendendo tantissime, ma non è, tenete presente, il discorso della stufa pellet, io stavo parlando con un amico carissimo, che lui è concessionario di un grandissimo marchio, forse il più importante, è un discorso che fanno in Italia, queste stufe a pellet, in Grecia, se vai in altre nazioni, loro lo vendono in tutta Europa, anche in altre nazioni extraeuropee, però mi ha detto, dove le vendiamo più di tutti è in Italia, ha detto, ma in Germania, no, in Germania utilizzano altri sistemi, pellet pochi, anche in Francia, solo in Italia e in Grecia, cioè dire che c'è una grossa vendita, in altre nazioni utilizzano altri sistemi per fare riscaldamento. Ma io sinceramente quella legna però pensando o sono di poeta non sarebbe neanche male, perché effettivamente oggi ne ho voglia di fare legna, oggi la trovo, domani punto domanda, quindi avere la possibilità di poter scaldare la casa anche con questa legna qua non sarebbe male, quindi vorrei portarmi avanti e cercare di mettere in condizioni anche di mettere la casa, che adesso accenderla dalle 4 del mattino per dire sino alle 11 del mattino, oppure la notte impostarla per poter, quando sono fuori, entrare e avere già la stufa accesa, capito? Queste cose qua, mentre invece la legna una volta che tu accendi, se la vuoi spegnere oppure devi aspettare che se ne scenda un po'. Totti, dimmela. Ho detto, ma l'ha presa a Sassari con gli incentivi? Beh, che io sappia sì, perché guarda, se faccio prendere il telefono ti copia, così almeno ci vuoi parlarci, ci parla direttamente, ma non so, se è una persona che ci posso parlare, sì, se no non ci sono problemi, capito? Però mi interessa sapere se l'hanno presa a Sassari, mi informo, dimmi, manda un messaggio, dimmi dove l'ha presa, capito? In modo che io mi informo e perché no? Perché se ci sono incentivi perché non sfruttarli, non capito? No, mi serve, la devo mettere nella stanza, questo finendo nel stanza che c'ho fuori, dai, un altro mini appartamentino che c'è fuori. Sì, informati anche, se ne puoi prendere due, così facciamo un blocco. Sì, sì, perché se gli incentivi rientrano, infatti ha chiamato a cellare a mia nipote, però non risponde. Perché loro c'hanno l'azienda, capito? Quindi se loro rientrano in questi incentivi, i di brutto, dico, mandamela subito domani mattina. Aspetta un attimino, allora, aspetta che te lo cerco, così ti mando tutte cose. Così riesco a capire meglio, capito? Perché quella che voglio prendere io costa 1980. Se ci sono gli incentivi, scusa, la posso pagare 1.200, altro che invece di 2.000 la pago verso 1.200, non so, 1.400, va bene lo stesso, non è un problema, però è una 12.000, capito? È una bella bestia. E poi va collegata ai termosifoni, Ibro, come si chiama? Ibro, ti ho mandato un messaggio? Se arriva, no, guarda. Va bene. No, io ce l'ho riscaldamento, però siccome nell'altra stanza non ci sono i termosifoni, e allora il progetto è fare una stanza, il bagno, l'angolo cottura, e ci mettiamo una stufa a pellette, lì, capito? Bene. Sì, se poi non è il numero, dimmelo che te lo giro. Ma già ce lo dovete sapere sicuramente. Adesso guarda, ci è arrivato il messaggio. Vai, vabbè. Ehi, di tu, se volete qualcosa di cosa, di personaggi, dai. Ne conosciamo uno che fa l'assistenza per tutti, quasi tutti, compreso quello che hai nominato tu, è ufficiale della Nordica, come si chiama quell'altra? Non Nordica, come si chiama? Affa Napoli, Extra Flame, che è la più grossa d'Italia a livello europeo e forse la più grossa di tutti. Poi c'è quello che c'è, che io conosco benissimo, tutti e tre, c'è Domenico, vabbè, che lui le vende, però l'assistenza ce la fa fare da altri, ma che non c'è la pizzeria, e più c'è Fabrizio, quello che c'è in via Coso, via, come si chiama quella, via Poli, no, quella via che scende di via Pascoli, siamo molto amici, cioè quello lì lo stesso, probabilmente fa anche questo discorso degli incentivi, perché lui fa il 110%, cioè anche opere di edilizia che è stata facendo. Vabbè, a me interessa opere di edilizia, però devo essere sincero, qualche piccolo abuso edilizio tramite qualche veranda, balle varie, quindi mi sa che deve passare tutta norma, capito? Ma il problema è quello lì, se c'hai una finestra anziché 1,20 m e 1,30 m ti bloccano tutto, perché non c'è, io ho parlato con persone molto molto in banca, all'interno della banca, ho detto non ci deve essere uno spillo di quello che c'è in progetto, se c'hai una finestra 10 cm più grande te lo bucciano e passi guai grossi. No, vabbè, la mia è smontabile, però me lo farebbe la Zuglia, l'ha capito, quindi lascio così. Però se c'è qualche informazione, Claudio, se vuoi qualche consulenza o qualcosa, lo chiediamo a questo Francesco, che poi se lo conosci più, che è una vita che fa quel lavoro lì e fa solo quel lavoro lì di assistenza e riparazioni, ed è il numero uno, tutta la provincia di Sassari. Più ci sono per vendere, ne conosciamo altri, almeno due o tre di persone, e poi uno sceglie e ti dice quello che va meglio. Certo. No, vabbè, io, e poi sinceramente parlando, io quando l'ho fatta questa qua, perché l'ho fatta io, ero ricco, buon'anima, che adesso purtroppo non c'è più, ho avuto un brutto incidente anche da poco e insomma sono andato, l'abbiamo tutta coibentata, quindi non devo fare né cappotto né niente, l'unica cosa che era da fare, se entrava in coso con 110, avrei dovuto fare, c'è un nuovo per le finestre, però lo devo mettere in PVC anziché in legno, cioè il legno a me piace tantissimo, avrei voluto lasciare le finestre interne in legno e cambiarmi per dire gli sportelloni e mettere quelle in PVC, capito? Solo quello. Guarda, io lo consiglio alla grande, PVC te lo dico per zone di mare, dopo io stavo, PVC sono eterni, poi non hanno conducibilità termica rispetto all'alluminio, anche se c'è l'alluminio va bene, tutto qua, indistruttibili, se, naturalmente bisogna mettere ferramenta di qualità, non mondetta, perché molti si fregano con la ferramenta, ed è eterna la porta, non c'è nessun problema, legno è bello, caldo, tutto quello che vuoi, però è una cosa cosa viva per cui ti dà solo problemi. E te lo dico per questione di mare, noi quando stavamo giù al mare per tanti anni, la casa dove stavo io con le porte e tutto quanto, i portoncini d'ingresso, tutto in PVC a oceano mare, l'unica che ha resistito è quella degli altri, quelli in legno non ne parliamo, ogni anno li devi fare manutenzioni, quelli in alluminio basta una scheggetta di una pietra e cosa talentata, ossida e ti inizia a creare problemi. Sì, sì, sì. Ma infatti, insomma, purtroppo non è che non ci ho pensato prima, ci ho pensato anche quello che stavo facendo, però al momento avevo dei quattrini disponibili e queste mi sono venute 12.000 euro tutte quante, e le altre invece mi venivano 18.000 euro, quindi c'è una sorta di risparmio notevole, e qui ho detto no, vabbè, mi servono il legno, al momento fatte finito, ma non le cambierò. No, assolutamente, il legno è la cosa più bella e più calda. Il legno è come qualunque cosa, un tavolo, un coso, adesso rimane in plastica, però quando il legno è legno. Però il problema, se tu vuoi una cosa che non la tocchi più, con legno la devi toccare, se li vuoi fare tenere che ti duri, se no iniziano a darti problemi, a scrozzare e tutto, e poi ce lo butti. Mentre il PVC è eterno, una cosa ti hanno 30 anni di garanzia, per cui non ti dà nessuno 30 anni di garanzia. Cos'è la veranda? No, volevo cambiare le finestre, no, però per risultare che stavo facendo, io il capotto non ce n'è bisogno da me, io a suo tempo addirittura avevo fatto blocchi da 25 con coventazione da 8 cm in pannelli e più ho messo il forato da 8 cm con la torre d'aria, capito? Quindi coventazione anche per i porci, solo che ho detto adesso se ne vanno appena ne approfitto e faccio fare questo preventivo per la compensazione, invece volevo mettere le finestre più che altro, capito? Ci conferma, no io ho le finestre in legno, poi ho gli sportelloni in legno lo stesso, quindi riserva molto le finestre, è chiaro che gli sportelloni al fortuna ne ho due solo in facciata, il resto sono tre dalla parte del Calvario, quindi sono al coperto e uno è sotto la veranda, quindi ne ho due solo esterne che prendono acqua, diciamola, quindi sono molto molto riservati, e va bene, anche perché la veranda è fatta in muratura, quindi non è in legno, capito? Va bene. Sì, sì, carottino, domani chiamo quella persona lì e mi faccio dare le info più dettagliate e preparo subito la documentazione immediatamente, perché lasciargli, perché Ilaria mi sta dicendo proprio, guarda che ci sono 5.000 euro di bonus a disposizione per elettrodomestici, per tutto, non puoi spendere più di 5.000 euro, capito? Quindi perché no? Magari prendo la stufa, vabbè, la vatricina giù lui, cosa vuoi subiliare? Un freezer a posto, un altro frigo da mettere in un'altra stanza, e si può fare tante cose. No, infatti è bello dalla studio a dispendere, che non è così, perché... Ah, ecco l'idraulico, buonasera Vannino, spiegaci allora, ecco, io mi ci comprare la stufa a pelletti con incentivo, come ti funziona? Sì, ma non è che paghi 2.000 e poi te la danno per 1.000, ne ha 3.000 vengono retratti negli altri in base a quello che si chiama. Però è bello, cioè se la scala poi quando fa, poi aspetta come si chiama, che mi dice il nome. Sì, come ti ha detto benissimo. Bravo Inter. Ho comprato 600 euro, tu se la compri nuova, c'è 2 anni di garanzia, la paghi 1.500, ti fanno uno sconto in detrazione, capito? Non è che vai lì e gli dai 600 euro. Ciao Vanni, ma perché sei tutto sciattolo? Perché, sicuramente sto spingendo, infatti, aspetta, ok, adesso va meglio? Sì, dal giorno alla notte, ciao Vanni, mi hai ascoltato. Ascolta Vannino Mantera, e quindi in detrazione cosa vuol dire? Cioè io la pago a prezzo pieno, così è? No, sì, il discorso è che quei 600 euro di sconto che hai, per il mostro ogni volta il prezzo è 30, in pratica, per capisci, poi vengono detratti in questo modo. Se fai 110 non ce n'è bisogno, ok? Capito dove? Se vai tu a comprare un televisore invece, come ha detto qualcun altro, tu gli investi il televisore e vedi che ti danno già i 100 euro, te li tolgono già da lì i 100 euro. Quando vai a comprare le stufe, per esempio, una caldaia, è vero che ci sono i le detrazioni, ma da un tempo non mi ricordo in quanto viene ammortizzata la spesa. Invece di pagare 7,30 al centro, ne paghi 80, adesso mi pare 6,50, non me lo ricordo com'era, lo stavo seguendo e non me ne frega. Io ne ho comprato uno invece da un amico, si può per dire, gliel'ho tolta, una caldaia però questa, non è più una superfere, se però ne conosco uno che ce la deve cambiare e non so quanto l'auguria. La deve vendere, perché gli sto montando, gli sto facendo un piatto di riscaldamento, sarà una stufa a pelle da dar via. Credo che la dia via, perché intanto se ne fa niente. Perché dobbiamo comprare una idro. Però non so il prezzo, però domani glielo chiedo io e ti faccio sapere se c'è un prezzo. Però comunque è così, le detrazioni vengono fatte, non subito, valici quel certo, uno sconto immediato, non è uno sconto immediato, per capirci. E poi fammi sapere quanto ne vuole, se ne vale la pena prenderla. Guarda Tino, la stufa è nuova, lui deve già iniziare le tracce per 6 settimane, non so quando è, ma comunque a breve la togliamo, ma c'è il giorno e penso di sì, ti rimonto tutto. So che lui mi ha detto che quella la toglie e quindi non se ne fa niente, la deve per forza vendere. Non so cosa dirti, è nuova la stufa, è nuova. Però è sempre una stufa a pellet, non una idro per capirci, non quella termosifoni e così via. No, non mi interessa, Vanni, poi ti rilancio qua. Non mi interessa idro a me, non mi interessa a pellet, possibilmente se è canalizzata ancora meglio. Però montiamo, va. Vediamo un pochino. Vai Claudio. Ascolta Vanni, domanda e risposta secca, ma tu le piazzi con i tubi già pronta, c'è la carotatrice per bucare il muro, c'hai tutto per fare, se io ti faccio trovare la stufa qua? Per forza. Cos'è la carotatrice? Tino, spiegami cos'è la carotatrice. Non ci vuole niente, la stufa pelle fa il buco del camino e basta, è finita, non c'entra niente. Poi ci sono altre stufe che hanno bisogno di una presa d'aria di recupero, aria, ma quelle sono, mi pare che non le facciano più. E quindi è così, va bene, compra la Claudio, spendi questi soldi già, e poi gliela piazziamo, non è un problema. Ma giù la caldaia io, quella mi serve per l'altra stanza, poi vedrai come sono organizzati. C'è la caldaia, io do la Silver, la montata a sacchetti, c'è l'impianto di riscaldamento a gas. No, beh, la carottatrice io l'ho sempre chiamata, no? Anzi che ammattete il scalpello, metti il tamburo in base al tubo che devi uscire e fa il foro, non si chiama carottatrice, Tino. Sì, va bene. Io quello ho visto. Carottatrice la chiama, è buono qui. Vabbè, quella lì. No, io ho già la canna fumaria predisposta fuori perché l'avevo predisposta praticamente nel salone, all'angolo del salone, c'è già non c'è foro, è però fuori c'è già la canna fumaria pronta, capito? Quindi il tubo entra lì dentro, se no a fumigheggio e video la sopra, capito? Quindi è già tutto pronto, c'è a fare il foro per tirare fuori il tubo e mettere la curva per salire sulla in alto per la canna fumaria. Va bene, quindi tu le piazzi? Dimmi sì o no, è inutile che fai un sacco di domande. Non ti ho già spiegato, comunque si chiama la carottatrice, ok? Oppure la presa d'asta, vabbè, adesso ognuno la chiama così. Sì, ti ho detto, ci vuole solo il buco, è buco, poi l'accendi e va da sola, non ci vuole niente, bisogna solo installare la tubatura e lo scarico. Scarico un fumo e basta. Sono già pronte ormai, non c'è bisogno più di niente. Prima una volta, prima accensione, seconda accensione, tutto gratis, perché poi prima accensione veniva lì, si chiamava la spugna, se l'accendeva, arrivederci. Comunque sì, non è un problema, fumo a montarla. Lui era una vesseria. E invece ho preso una Paisan, 300 euro, ma tra l'altro 24.000, però comunque caldaia, ma è un'altra cosa, però vabbè, io ho il posto qui, mi serve qui perché comunque questa produce anche acqua sanitaria in più per riscaldamento a acqua, plastico e impianto normale. A gas è la sapete che non ho, ci vuole il coso dietro, butta in gas. Va bene, andare. Capito Tino, sempre bisogna mangiarsi, se ne freghi. Comunque glielo chiedo se ha intenzione di darla, se la dà, quanto la dà, come la prenda, tutta nuova, bella, proprio immacolata. Sì, vabbè, tieni presente che per quel prezzo metto Claudio me la compare giù nuova, non è che se se c'è il tanto di risparmiare, Vanni, si fa, dai. Poi magari mando qualche foto dettagliata e ti ripeto, se poi è analizzato ancora meglio, perché la mettiamo, la guardiamo assieme, la mettiamo in un punto per poter scaldare sia questa stanza da solo io che magari le stanze a spalle a me, capito? Comunque vediamo cosa ti dice, dai. Abbiamo lasciato un po' in bianco a Roberto. Roberto, no, no problema, sto ascoltando, non c'è problema, ci mancherebbe. Ciao Vannino, non so se mi ascolti, comunque mi sentito anche a te. Sì, ascolto tutti comunque, ciao. Sì, no, non è canalizzata perché l'ho vista ieri, ho fatto il sopralluogo per l'impianto e non è canalizzata, perché anche lui ha lo stesso problema, ce l'ha in cucina, la cucina è grande, ingresso cucina per capirci, e poi le camere, è un disastro comunque, perché hai una temperatura per esempio di 30 gradi dove è lei e poi nelle altre camere devi battere i denti, ma se ha una mura del piede c'è problema. Il problema è quello, sì, il problema è quello, io ho lo stesso, la mia office space, Vanni, capito, quindi ho 40, quasi 50 metri quadri di salone, perché c'è il salone, l'angolo cottura, insomma tutto grande, e poi ci sono le tre porte per le stanze da letto, il bagno. Quindi non ti scalda, cioè come hai detto tu, 30 gradi inizi bugiato e poi vai nelle stanze a letto e sono fredde, ecco perché io ho il termosifone nelle stanze a letto, tutto a gas, caldaia a gas, e la Silver, non so se le conosci quelle caldaie, vanno molto bene, hanno fatto l'impianto Sacchetti, avevo fatto l'impianto, e funziona molto bene, la verità. Cosa consuma, perché cosa, neanche 250 litri al mese sono. Ah, boh, dipende da quanto, ma non mi fare questi discorsi, perché mi devi dire solo quante ore l'accendi e fa, allora poi ti dico quanto consuma, perché se mi dici che consuma 100 euro, vuol dire che tutto la faccio io, questo è quanto devo, poi le caldaie a gas ormai, siccome va, visto che abiti in campagna, una biomassa, io l'ho tolta quella che avevo per la ricorsi, ce l'ho ancora qui, comunque me ce la faccio, quella va a legna, va a pellet e va a tutto quello che vuoi. Ma l'ho tolta così, giusto perché era un po' ingombrante, poi ho detto vabbè, è capitato l'affare e quindi l'ho fatto. Il consumo sta lì, capito? Il gas è quello che costa, capito? Non è tanto quello che consuma, ma se è una 22.000 è circa un chilo ora, sono 2 litri ora, quanto conta, quanto costa e così via. Ha un costo, il gas è eccessivo. Poi non lo so, magari a te ti fanno un prezzo diverso, così a poi con questi avventi che hanno avuto il gas è sicuro. E nel prezzo comunque per capirci. Ma io perché non avevo più voglia di fare legna, questa roba così, ma guarda, quella che ho io è una canonata. La biomassa metti della legna e vada solo, giusto per capirci. Comunque secondo com'è la tua, per esempio, visto che tu hai l'impianto di riscaldamento, ti metti una idro, prendi non so quante grane, ma una 22.000, per esempio 20.000 a idro, la metti se è uno punto da mettere vicino al centralino o da collegare, io adesso non so come fa la cosa, ma è già fai andare a pelle perché tutti consumano molto meno, capisci? Aspetta, qua ti dico qua, un giorno tu mi hai detto tutto si può fare e questo io ne faccio tesoro, e se noi mettessimo una ventola a tirare l'aria calda da questa stanza, tanto c'è una spalla di altre stanze, quindi è un forato, una di quelle ventole da aspirare, non va lo stesso il caldo lì. E a spalle la camera, lo sai cosa puoi fare, il tubo dello scarico lo porti dall'altra camera e metti un radiatore interno, quelli famosi che si mettevano prima sulle stufe a legna, te lo ricordi? E il tubo stesso fa da radiatore. Sì, anche quello ce l'ho pensato. Ma io ho pensato alla cosa più semplice, vengono quelle ventilature, ma quelle prese da aspirare, quelle che si usano per dire nei bagni pubblici o una roba lì, no, è una ventolina che aspira l'aria, quindi potrebbe, una volta che calda la stanza, una volta che scende la ventola, se non che la disturbo naturalmente, perché diciamo questi disturbi che ho in giro io, niente, va a finire l'aria calda anche nelle altre stanze. Vabbè, ma è un'idea, bisogna provarla, tieni conto che la ventola quando tira troppa aria la raffredda in parte, che non se la tira troppo calda, quindi da un po' la parte. Però tutto è possibile, adesso bisogna vedere come va montata, però comunque sia, come ti ho detto io, tu monti direttamente il tubo, lo allunghi alla camera, se ci riesci, e la fai entrare nella camera e vedi che si raffrescala lo stesso, perché il tubo dei fumi, cavolo, ha una temperatura almeno 100 gradi. La vediamo, vediamo. Ci fa come e poi ci studiamo sopra, tanto non è così urgente, però se si riesce a fare la si fa. Roberto, poi anche tu Robert dacci qualche idea, perché sai, noi ributtiamo i miei, poi sai che magari tu conosci che qualche altro che ce l'ha questa cosa qua, che si è inventato questo fatto di viaggio, non so. Ma io sinceramente non è che sia molto pratico, perché non io su fa pellet, mio fratello c'ha quella idro, l'ha cambiata. Questo discorso della ventola, come ha detto Vannino, secondo me se non c'è il tuo punto, perché alla fine ti darà aria, ti tira aria, ma non è che ti dà la temperatura del coso, per cui ti darà solo una ventilazione, ma non che ti porta del calore per riscaldarti una stanza, ti credo ben poco, via. No, vabbè, c'è anche una cosa, è vero anche come ho detto Vannino, nel senso che se è troppo forte la ventola, giustamente aspira troppo e quindi ti raffredda l'aria, ma se la ventola è leggera, ci sono quei regolatori di giri, no? Che magari la fai, cioè deve essere costante, piano piano e sempre tirando, tipo una ventola che ne so di computer, di PC, una cosa del genere, capito? Infatti, cos'è, va bene? Sì, diciamo che deve essere giusta, in base al calore, per mettere una ventola che sia regolata, sopra di un riduttore di velocità, gliela metti e la ventola la gestisci come vuoi. Ma no, quello è fattibile, basta usare un po' fantasia, ci riesci, perché un reattore di giri, la ventola fa girare come vuoi, capito? Quello sì. Purtroppo per riscaldarsi o raffreddarsi c'è un costo. Ci vuole i giorni, noia, ormai tutto è caro, capito? E quindi, vabbè, che ci vuoi fare? Ma tu in campagna sì, non vedi, quella che ho io sarebbe adatta al massimo per te. Quella sì, perché ci butti legno, a voglia, sai quanto cammina. Io ce l'ho, Anni, non so se ti ricordi, io ce l'ho una stufa a legna, è che, ti ripeto, oggi ho voglia di farla, la legna va bene, ci sta, scalda, in cantiere qualche quintale di mascelle sotto misura riesco ancora a portarmela a casa. Il problema è un domani, se poi questo domani non mi viene più voglia, non ho tempo, oppure c'è stato un periodo che sei stato incasinato, non hai potuto fare legna, ora devi acquistare o poi devi risolvere in questo caso qua. Ti ho capito come me, lo stesso, io prima ho recuperato qualche tonnellata di carbone, quindi andava bene, sai quanto viaggiava la grande, poi un po' di legna, un po' di nocciolina, cioè ogni tanto si variava nelle cose, diciamo nel combustibile, ma poi alla fine non è più voglia, poi ci sono e non capisco. Questa rimetti nocciolino oppure pelle, se va tranquilla, non ha problemi, nel senso che insomma. La chiarata bisognava seguirla un po', capisci? Bene, allora, rimaniamo sempre con punto di domanda, poi se c'è qualcosa fammela bassa. E allora al limite, glielo dico, domani lo devo vedere, domani mattina, perché sto facendo degli impianti in campagna, in una campagna, una villa in campagna con lui, che questo diciamo che una specie di imprenditore, diciamo, là, anche se sono fratelli, sono in due, che la ci lavorano come che hanno una ditta di edilizia, e quindi domani lo vedo, perché ci dobbiamo vedere, perché devo finire i lavori e ne parlo. Poi se la vende ti chiamo, se no non aspettarti niente, nel senso che ci sentiamo per altre cose. Va bene, dai, è stato bello, Claudio, quando è non è un problema, comunque, prego, già ci facciamo usare la piazziata. Ok, grazie Vanni, perché non so se me la piazzano direttamente loro, eccetera. Va bene, adesso chiedo a mia nipote, loro le prendono le stufe, quindi non ho problemi, se poi la trovavo usata, ma voglio prendere la nuova, va bene. Fanny, e allora che profumo mi hai fatto una domanda e non ti ho risposto. Allora, noi se la ghiaccia ad esempio queste giornate così non c'è molto freddo, c'è stata una giornata che c'era molto freddo, lo abbiamo acceso dalle 4 fino alle 10 il riscaldamento, la caldaia, capito? Se no di solito dalle 5 alle 10, 5 ore al giorno, vai. Guarda, io non te lo dico io, no, te lo dice anche, vabbè, tutte queste cose, allora lì loro la collaborano così, l'accendo la lasciano accesa, ok? E ti dicono quanto consuma un'ora, allora glielo dico io. Poi giustamente dipende dall'ambiente dove è messa, come sei messo ai fissi, se la camera è... da un sacco di cose, ok? Però normalmente è quello più o meno là il consumo che ha. Poi, radio, che c'era a casa della sartogliena, ma che cosa botta? Mi dà mai 250 euro, 300 euro mesi, di gas. Ma infatti voglio trovare un altro tipo di soluzione. Capito? Vabbè dai, già ne parliamo con calma. No, io come fissi sono tutti nuovi, doppi vetri, sportelloni, tutto bello sigillato, no, non è bassa aria, non problema. Poi c'è tutto il giro, ho già la vista Roberto, in giro la casa c'è tutta l'intercapitine che ci cammini tranquillamente, è 1,50 m larga dalla... c'è tutto il cavere in giro, qui è molto isolato la casa. Va bene, poi con calma ci vedremo, ne discuteremo anche di questo, dai. Va bene, va bene. Sì, no, te l'ho detto, quella di Uri mi pare, mi ha detto, l'hanno ritirata da poco, poi ne hanno ritirato un'altra idro, a, non so se a 800 euro, a 900 euro, il genero di mio fratello. La stanno controllando, revisionando, poi sicuramente la metteranno in vendita. Non so, devo vedere, devo vedere. Va bene, poi se c'è l'incentivo anche al recupero, non so per quanto, in detrazione per quanti anni, su 730 va bene lo stesso, non problema. Ciao Vanino Bantè, tante cosce belle e piacere mi ha fatto ascoltarti. Il cambio per Roberto e a girare, vai. La Inter 3-2, adesso un incidente brutto al portiere in terra, nel dogale di Laringa, si è bloccato, diciamo che non si è fatto niente il portiere, si sono sbattuti la testa l'attaccante dell'Inter, il coso, con quello del Napoli, il portiere, ce l'avete? E caduto in terra, gli stavano togliendo la lingua. Anche cosa? Perché le stanno tirando la lingua? Aspetta, saluto a Vanino. Ciao Vanino, sai, fammi sapere. Riprendi qua. Ciao a tutti, ciao Roberto. 3-2, quindi sta vincendo l'Inter. Sì, ciao Vani, ben sentito. È uno scontro di gioco, sì, adesso ha segnato ogni gol, l'ha fatto della cosa, del Napoli, Martens, bellissimo l'incrocio del pari. Oh vabbè, erano belli anche gli altri. Due squadre forti sono. Due squadre fortissime sia il Napoli che l'Inter. Se l'Inter sta vincendo a Napoli se la gioca col Milan quest'anno e lo scudetto. Capito, sì. E anch'io sto cercando queste soluzioni perché a me mi costa 300 euro al mese il gas. Adesso vabbè, mi hai fatto ricordare la partita di oggi, lo stesso mio figlio è portiere, ha fatto una parata, quindi è andato giù in terra e praticamente il tipo è andato a prendere la palla, è caduto il ginocchio in testa, è stato insomma qualche minuto con le mani in testa, ha detto che è successo questo qua adesso, poi meno male che è tutto a posto. E non c'è lo sforzo dell'arbitro, gli ha dato anche il rigore, cazzo, non aveva parato. Parato di là. Sì, un gatto lui che ha tirato l'angolo dell'incrocio, ci ha tirato un salto e l'ha presa, bravo. Oggi è stato per più. No, abbiamo vinto di poco, 11-1 abbiamo vinto. Perché già va bene, già va bene. Avrai un secondo Buffon. Vabbè Roberto, ti dici informati, non la sto guardando io la partita, c'è gente, infatti ogni tanto mi allontano, dimmi cosa è successo. C'è tutto Zecco al portiere del coso del Napoli, è ancora in terra. Vabbè, adesso però mi hanno chiamato a mangiare, dai, ci sentiamo dopo se ci siete, scusatemi, io vado a mandigare. No, vabbè, già si è alzato il portiere, dai, è a posto, tutto fasciato, e hanno messo una specie di coso, di fasciatura in campo, così Zecco si sono putti testa a testa. Vi lascio, dai, ciao Tino, ciao Claudio e tutti gli amici in ascolto, ci sentiamo dopo se c'è qualcuno. Ma stanno dicendo l'Inter? 3-2, sì. Ebbè, per il re. Ebbè, Gianni Asci. Babbo, va, che il mio che sta chiamando a fare una partita a Tano, va, che adesso prima di fare tutte cose ci facciamo una partita a Dama, così almeno gioco un po' più con lui. Ci sentiamo, state bene, fate cosce belle a tutti quanti, e poi se avete voglia, se più tardi già entro, va, ce ne va la pena di che c'è gente, diciamo. Ok, ciao, divertita. Ciao Muscolò, ci sentiamo, saluti a casa, non lo so, lo vediamo, se non c'è niente in TV, tanto io non mi devo alzare il prezzo, capito? C'è anche l'aria.